rimetterti in gioco, uno scatto d'orgoglio ferito per anni senza una reazione. Hai preso la saggia decisione, per una volta non ti ha travolto lo sbadiglio come un tasto da premere. Hai toccato il reset e sei ripartito, perché nulla è perduto e non sei finito. Una delusione, una ferita, non manda alle ortiche una vita. Complimenti, non pensare niente, togliti i pensieri negativi dalla mente. Ancora complimenti, non ci sono perdenti, solo chi accetta le sfide, chi non si rassegna sempre ci guadagna. Vai avanti perché sai, non c'è scadenza alla speranza, ora tutto hai azzerato, come un cavallo lascia le redini, sorridi spensierato in questo parco divertimenti, senza troppi ragionamenti. Nuovo con affetto, io ti rifaccio i miei complimenti.